La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 23 maggio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi parleremo di bioelettricità microbica, ovvero dei batteri che generano elettricità. Per parlare di questo argomento abbiamo in studio il dottor Renato Fani, professore di genetica presso l'Università di Firenze, e Stefano Mocali, PhD presso il Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra le Piante e il Suolo. Buongiorno a entrambi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Fani, cominciamo da lei. Visto che all'inizio abbiamo queste normali, classiche 100 parole iniziali per cominciare la trasmissione, che cos'è la bioelettricità microbica? Dunque, la bioelettricità microbica è una straordinaria capacità che è stata scoperta, diciamo, 7-8 anni fa, agli inizi del secolo, capacità che di alcuni microrganismi, in particolare alcuni batteri, che vengono chiamati batteri elettrigenici, proprio perché hanno la capacità di generare energia elettrica, di produrre energia elettrica e di poterla trasferire anche ad altri batteri attraverso delle microfibre, delle nanowires, capacità straordinaria che avrà sicuramente un impatto molto forte nel prossimo futuro. Di questo e di molto altro ne parleremo nel proseguo della trasmissione, ma adesso andiamoci ad ascoltare il solito primo pezzo musicale, Creative Commons. Bentornati a Caccia Fotone. Beh, allora diciamo un po' com'è nata questa trasmissione. Qualche settimana fa c'è stato un convegno proprio sulla bioelettricità microbica e c'è stata la presentazione di un progetto molto molto interessante in cui si cercava di generare fondamentalmente energia da alcuni batteri particolari. Allora, cerchiamo di capire come avviene questo fenomeno di bioelettricità microbica in cui alcuni batteri generano elettricità. Dunque, allora, questi batteri sono in grado di produrre elettricità in maniera sorprendente per noi, forse non tanto per loro. Riescono a usare qualsiasi tipo di matrice organica come substrato di nutritivo, e diciamo il trucchetto fra virgolette sta nel fatto che il trasporto di elettroni, anziché avvenire all'interno della cellula, avviene esternamente attraverso particolari citocromi non ben caratterizzati ancora, quindi se ne sa ancora molto poco. Però il passaggio di elettroni esternamente alla cellula consente di, nel momento in cui sono posti a contatto, per esempio grafite, di trasferire gli elettroni da un elettrodo a un altro, e questo ha consentito quindi di costruire delle semplici batterie chiamate microbial fuel cells, quindi delle vere e proprie batterie, e consentono a dare questa loro capacità. Mi sento a scatti, però effettivamente queste microbial fuel cells, che cosa sono? Sono fondamentalmente delle pile? In che modo vengono messi questi batteri? E soprattutto vicino a quale punto della pila? Perché sappiamo che la pila ha, diciamo, due lati, un lato in cui c'è un anodo e un lato in cui c'è un catodo, che trasportano questa energia per generare elettricità. Esatto, allora, e funziona proprio così, è proprio una pila costituita da due celle, un anodo e un catodo. La matrice organica insieme a questi batteri vengono posti all'anodo, quindi in ambiente tra l'altro anaerobico, in modo che non vengano, diciamo, tra virgolette, dispersi, catturati dall'ossigeno presente. Questi elettroni, in assenza di ossigeno, passano attraverso l'unica via favorevole in quelle condizioni, quindi l'elettrodo, passano attraverso il conduttore e vanno a finire nella cella catodica. Qui è posta una soluzione ossidante, acqua, qualsiasi altra cosa, presenza di ossigeno, e l'ossigeno in quel caso rappresenta l'accettore finale di elettroni. Quindi fondamentalmente questi elettroni passano dall'anodo al catodo, poi si mette un circuito e si genera elettricità, e questo è il principio. Esattamente, come una, diciamo, la classico schema della pila Daniel, insomma, molto molto semplice da un punto di vista teorico. Allora, cerchiamo di capire perché avviene questo fenomeno, perché il principio per cui alcuni batteri generano elettricità e quindi estraggono dal loro interno degli elettroni che poi vanno a viaggiare in questa pila e generano appunto l'elettricità che poi viene ricavata, è un concetto molto, molto particolare, un concetto molto antico come abbiamo già sentito, ma un concetto che probabilmente sfugge alla maggior parte di noi. Esattamente come avviene questo processo, visto che sono anni che si studia? Il punto è proprio questo, cioè il fatto che alcune specie batteriche sono magari per ottenere l'elettrone esternamente, è ancora un... Vi sento pochissimo. Dicevo, il fatto che alcuni batteri siano in grado di trasferire elettroni esternamente, il meccanismo attraverso il quale avviene questo processo è ancora ignoto, e questo è il punto, diciamo, la frontiera della ricerca attuale. Ci sono batteri che trasferiscono elettroni direttamente attraverso questi nanowires, queste fibre microscopiche, altri invece che utilizzano delle molecole tipo piocianine, come molecole shuttle, che trasferiscono gli elettroni anche a distanza, quindi non è indispensabile il contatto fisico con l'elettrodo. Quindi fondamentalmente questi batteri esattamente dove vivono? Perché il problema dei batteri è creare anche un cosiddetto humus in cui si possano replicare, in cui possano moltiplicarsi per generare poi l'elettricità che ci serve. Dunque, i primi batteri che sono stati isolati e che hanno dimostrato questa capacità elettrigenica sono stati ritrovati in condizioni un po' particolari, all'interno di miniere, quindi in condizioni un po' particolari, ma recentemente questi batteri con capacità elettrigeniche sono stati isolati anche da altri ambienti che sono più comuni. In particolare noi abbiamo utilizzato una matrice che è sotto gli occhi di tutti, che è il Sole, per generare energia elettrica da questi batteri, quindi è possibile che questa capacità elettrigenica così straordinaria, che pensavamo fosse così straordinaria, in realtà forse sia più ordinaria di quanto non possiamo immaginarci, e quindi possa essere, non dico una costante del mondo microbico, ma probabilmente una caratteristica molto più comune di quanto non ci potessimo aspettare inizialmente, e quindi è possibile che molti dei batteri che non sono stati ancora studiati da questo punto di vista, siano però capaci di produrre energia elettrica, e sono batteri che vivono praticamente in tutti gli ambienti possibili e immaginabili. Il nodo è quali tipi di batteri possono generare energia, e se sono solamente aerobi, come fino a un certo punto della storia di questa bioelettricità microbica si pensava, oppure se possono essere anche anaerobi, cioè se respirano oppure no. Dunque, esattamente questo è il punto, l'idea del nostro progetto è proprio anche, è una delle idee, una degli scopi del nostro progetto è proprio questo. Inizialmente infatti i batteri che erano stati isolati erano solamente di un certo tipo, e quindi erano, diciamo, anaerobi, e quindi batteri che quindi vivono in assenza di ossigeno, anzi per loro l'ossigeno è un veleno. La realtà, appunto, come le anticipavo prima, è un po' diversa, anzi è probabilmente completamente diversa. scienza, perché sono stati isolati batteri con capacità elettrigenica anche aerobie, che quindi vivono normalmente in presenza di ossigeno. Questo è probabilmente legato al motivo di cui parlava prima Stefano Mocali, cioè di quale possa essere il significato biologico della trasmissione di energia elettrica, e di cui non si sa assolutamente nulla, ma il fatto che possa essere così, tra virgolette, chiedo scusa, generalizzata, probabilmente può aprire anche delle frontiere, degli scenari nuovi che sono al momento per noi completamente sconosciuti. Senta, non è chiaro effettivamente quanta energia producono, perché il discorso è prendere questi batteri, metterli in un humus tale per cui si possono moltiplicare, poi metterli vicini a una pila, come abbiamo descritto prima, quindi una MFC, una Bicarbonate Fuel Cell, che poi genera elettricità. Ma effettivamente si riescono ad accendere le lampadine con questo sistema? E dunque, lampadine se ne possono accendere con un semplice sistema costruito in laboratorio, quindi anche in piccola scala. Le dirò di più, ci sono sistemi costruiti recentemente in Australia o in altri paesi, quindi dei piccoli sistemi pilota che riescono, diciamo così, a contribuire all'alimentazione di piccoli impianti industriali. Quindi diciamo che le lampadine si accendono, ma si è accesa anche una luce verso applicazioni future di ben altra portata, insomma. Ok, allora ci andiamo a ascoltare un piccolo pezzo musicale, continuiamo a parlare di questo progetto in generale, delle Microbial Fuel Cells, e poi rientreremo in studio. Everything's okay, I'm just trying to act my age. Yeah, I wanna know. Bentornati in studio. Volevo introdurre un attimo l'argomento della vostra ricerca. Abbiamo già detto che l'argomento della vostra ricerca fondamentalmente verteva sul fatto di capire quali tipi di batteri generavano più elettricità, e se erano solamente gli aerobi oppure se erano gli anaerobi. Effettivamente, che tipi di batteri avete trovato che generano più elettricità? Giusto per fare due nomi, dai nomi probabilmente incomprensibili per noi. Dunque, noi li stiamo caratterizzando in questo momento, questi microrganismi, e abbiamo utilizzato, come le dicevo in precedenza, una matrice che è una matrice di suolo, quindi un normalissimo suolo che uno può trovare normalmente nel proprio giardino, e alcuni di questi li abbiamo già caratterizzati, e alcuni di questi microrganismi sono simili a quelli già precedentemente studiati, del tipo di Pseudomonas aeruginosa oppure anche di Scevanella o d'altri. Sono nomi appunto che probabilmente a molti degli ascoltatori possono non dire niente, ma sono il nome di microrganismi che normalmente noi troviamo diciamo nell'ambiente naturale, che questo sia l'acqua poi oppure il suolo, comunque si trovano normalmente nell'ambiente naturale. E mentre invece ce ne sono altri di altro tipo, di altri con altri nomi e cognomi, che sono al momento erano inesplorati e non si sapeva sembrava che potessero produrre elettricità. Come le dicevo, probabilmente la capacità elettrigenica è molto più una caratteristica molto più comune di quanto non pensassimo originariamente. Il nostro scopo è proprio quello, diciamo lo scopo del nostro progetto in realtà è multiplo, non ha soltanto lo scopo di caratterizzare e dare un nome o un cognome a questi microrganismi, ma cercare anche di studiarli un pochino più in profondità, cercare da un punto di vista scientifico, puramente teorico, di capire il meccanismo molecolare e il significato biologico della produzione di energia elettrica, perché probabilmente questo ci potrebbe aprire delle nuove frontiere, dei nuovi scenari che attualmente non possono essere, diciamo, neanche percepiti, proprio per l'ignoranza che c'è del meccanismo di produzione di energia elettrica. Senta, parliamo un attimo di efficienza. Effettivamente, spulciando i vari documenti avevo visto che questi batteri non sono efficienti sempre allo stesso modo, cioè se mangiano per esempio rifiuti organici generano un certo quantitativo di energia, se mangiano rifiuti del suolo generano un altro quantitativo di energia. Vorrei che ne parlaste voi, visto che il progetto è vostro e quindi diciamo che cerca di analizzare qual è l'efficienza di questi batteri e se effettivamente producono tanta energia quanta ci aspettiamo. Dunque, questo è uno proprio dei punti più caldi della questione. Il fatto è che inizialmente i batteri identificati per primi, appartenenti al genere Geobacter e Scevonella, come dicevamo prima, sono batteri che sono in grado di produrre elettricità anche da un substrato, a partire da un substrato semplice come acetato, glucosio e così via. Quello che ci siamo accorti, quello che è emerso invece più recentemente, è che le rese più efficienti non sono dovute a un singolo batterio, ma a una comunità di batteri, quindi c'è un'interazione che ancora non siamo riusciti a capire, che è proprio il punto chiave della ricerca in questi giorni, attuale, è quella di capire proprio come interagiscono i batteri tra di loro in modo da utilizzare in modo più efficiente il substrato che poi utilizzano, perché come potete immaginare da un punto di vista applicativo utilizzare una biomassa di scarto e di rifiuto come fonte di energia è ben più complicato rispetto a utilizzare glucosio o un substrato semplice, quindi utilizzare una matrice così complessa è molto difficile per un singolo batterio e quindi l'attività deve essere comunque svolta in comunità. Senta, vi voglio fare una domanda scomoda che normalmente non faccio ai ricercatori. Un anno fa intervistammo una ricercatrice di Napoli sui Termotoga neapolitana, che erano dei batteri che mangiavano rifiuti e fondamentalmente producevano idrogeno. E quando feci la domanda, avete avuto finanziamenti oppure avete avuto qualche richiesta da parte di qualche industria per sviluppare delle pile che generano elettricità, lei mi rispose secca no. Voi esattamente da dove avete avuti questi finanziamenti? Avete avuto finanziamenti da parte del governo, che normalmente è restio a dare finanziamenti sulle ricerche scientifiche, oppure stranamente in qualche modo si è svegliato questa volta? Dunque sì, la situazione è abbastanza complessa, proviamo a riassumerla. Noi abbiamo in realtà abbiamo avuto un finanziamento che ci ha permesso di cominciare a lavorare su questo progetto un anno e mezzo fa dall'ente Cassa del Risparmio di Firenze, e devo dire che almeno in questo caso, ma anche in molti altri casi, l'ente Cassa del Risparmio ha avuto una certa lungimiranza e noi siamo ovviamente molto contenti di questo. Abbiamo chiesto anche di finanziamenti, li stiamo chiedendo anche a delle altre entità, soprattutto entità pubbliche ma anche entità private, e dovremmo avere a breve o tra poche settimane il responso. Non è facile, le spiego e cerco di far capire anche agli ascoltatori perché certe volte è difficile ottenere anche dei finanziamenti, soprattutto in un ambito che riguarda i microrganismi, cioè i batteri e via discorrendo. È molto difficile perché la ricerca sembra quasi essere orientata verso lo studio di alcune malattie, ad esempio nel campo medico e via discorrendo. scorrendo, mentre invece ci dimentichiamo che i microrganismi esistono, anche se sono invisibili, sono responsabili di tutti i cicli biogeochimici del pianeta, e che senza i microrganismi nessun'altra forma vivente sulla Terra avrebbe la possibilità di sopravvivere. Questo però non viene spesso, quasi mai, percepito dagli enti predisposti al finanziamento dei progetti. In questo caso, nel caso dei batteri elettrigenici, oltre ad un aspetto puramente scientifico che è straordinario, perché per noi che siamo catapultati in questo universo dell'invisibile, dei microrganismi invisibili, il capire il perché questi microrganismi riescono a produrre elettricità e il motivo per cui lo facciano è una sfida, secondo me, davvero incredibile. Ma al di là di questo, dell'aspetto puramente teorico, c'è un risvolto applicativo che è secondo noi di fortissimo impatto, perché se lei pensa, se c'è una percezione chiara di quello che possono fare questi microrganismi, possiamo teoricamente chiudere il cerchio, perché questi microrganismi sono capaci di produrre energia elettrica utilizzando come fonte, come loro diciamo fonte per la loro sopravvivenza, dei materiali di scarto, per cui potrebbe essere possibile diciamo ripulire l'ambiente anche dagli inquinanti e contemporaneamente produrre energia elettrica. Mi viene da dire una cosa alla faccia di chi diceva che la chimica era una scienza morta. Dunque, allora sì, è vero, no? Alla faccia di molti che pensano che la scienza, dico, non sia così importante, che la scienza è straordinariamente importante, perché ovviamente è responsabile poi dell'avanzamento non soltanto della conoscenza, ma anche delle tecnologie e così via. Io credo che in un'epoca in cui, come quella in cui noi stiamo vivendo, credo che il tempo delle nicchie dovrebbe essere finito, cioè il biologo non dovrebbe stare nella sua stanzina a fare il biologo, il chimico lo stesso, il fisico lo stesso. A mio parere, e a parere anche di molte altre persone che si occupano di scienza, dovrebbe essere arrivato il tempo della collaborazione, della cooperazione e della sinergia, perché processi così complessi come quello della produzione di bioelettricità o la produzione da parte dei microrganismi non possono nella maniera più assoluta richiedere l'apporto soltanto di un solo tipo di esperienza, ma c'è la necessità di un'interazione fortissima tra biologi, naturalisti, chimici e anche di discipline. E per questo motivo noi nel nostro progetto sono inclusi non soltanto dei biologi, ma sono inclusi anche dei chimici, ci sono incluse anche persone che hanno una cultura completamente diversa. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi entriamo in studio per gli ultimi 5 minuti, 2-3 minuti, e giustamente è arrivato già il primo messaggio, è il 333-180-9494, che è del tutto pratico e fuori dalla teoria di cui abbiamo parlato fino ad ora. Bentornati in studio. Al 3380-9494 Rumis ci chiede: quando potrò dare in pasto il mio compost ai batteri? Non so chi voglia rispondere, se il dottor Mocali o se il dottor Fani. Sono Stefano Mocali, provo a rispondere io. Dunque, questa è una domanda piuttosto opportuna. Direi molto presto, penso. Le spiego perché. C'è un esempio proprio applicativo recentissimo, un'impresa americana, la Lebon Solutions, ha ricevuto un finanziamento consistente, $200,000, per lo sviluppo di un progetto da condurre in Africa. Le faccio questo esempio semplicissimo. Loro con dei secchi, proprio nel vero senso della parola, secchi di plastica, con il materiale organico reperito in sito, quindi direttamente in un villaggio della Tanzania, quindi costituito da scarti comunissimi di caffè, di scarti vegetali, con un telo di fibre di carbonio e un cavetto elettrico, hanno costruito delle MFC molto rudimentali che consentivano ad ogni capanna del villaggio di avere la propria lampadina accesa, quindi proprio con dei residui semplicissimi, senza bisogno di chissà quale tecnologia, chissà quale finanziamento, sono riusciti a portare la luce in villaggi non raggiunti dalla rete elettrica normale. Quindi alla domanda del telespettatore dico, molto presto, perché no, riusciremo a accendere tante lampadine col suo compost. L'obiettivo finale è quello di accendere qualcosa di più di semplici lampadine. Allora, l'ultima domanda invece ve la faccio io. Questo dice che una ricerca che non è solamente italiana, ma una ricerca fondamentalmente estera e si sta svolgendo in tutto il mondo. Come mai se ne sente così poco parlare, visto che insomma poche volte escono articoli sui giornali sulle MFC? Non se ne sente parlare in Italia, perché invece se ne sente parlare all'estero, sia nei paesi europei che sono partiti, diciamo, negli ultimi anni, e anche nei paesi extraeuropei. E il punto è che in Italia invece non se ne sente parlare, perché soltanto da poco siamo partiti con questo tipo di attività. All'estero diciamo che fino a qualche anno fa c'erano soltanto 2-3 gruppi che si occupavano di bioelettricità nel mondo, però da quando gli scienziati, e non soltanto gli scienziati, anche i governi di certi stati si sono accorti delle reali potenzialità di questi microrganismi, il numero di gruppi di ricerca che si occupano di bioelettricità microbica è cresciuto in maniera incredibile. Ci sono almeno 30-40 gruppi di ricerca in tutto il mondo che si stanno a questo momento occupando di bioelettricità microbica, e in alcuni stati si stanno già costruendo, i finanziamenti diciamo statali sono tali da poter mettere a punto dei progetti pilota per la produzione di energia elettrica in grande quantità. È ovvio che noi ci auspichiamo che nel prossimo futuro ci sia una percezione diversa da parte anche degli enti predisposti a finanziamenti dei progetti, una percezione dell'importanza della costa del processo di questo tipo di processo per la produzione di energia elettrica. Dottor Fani, dottor Mocali, si conclude così Caccia al Fotone. Intanto vi ringrazio per aver partecipato in diretta a questa trasmissione, per aver spiegato le microbi al fuel cell e per aver spiegato come si fa a estrarre energia direttamente dai batteri. Io do appuntamento ai nostri radioascoltatori per sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e come al solito stesso fotone, e vi do l'augurio classico di buona scienza a tutti. Grazie a entrambi. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata.